voglio vivere da gatto, che con la luna oggi ho fatto un patto, le stelle fanno il tifo per me, yeah yeah yeah. Metto la trappola col cacio sopra il tetto, la preda non si vede ma io aspetto, magari fino a un quarto alle tre. Da me. Buonanotte.